Insomma, Cosimo, con tutta la sua famosa fuga, viveva accosto a noi quasi come prima. Era un solitario che non sfuggiva alla gente. Anzi, si sarebbe detto che solo la gente gli stesse a cuore. Si portava sopra i posti dove c'erano i contadini che zappavano, che spargevano il letame, che falciavano i prati, e gettava voci cortesi di saluto. Quelli alzavano il capo stupiti, e lui cercava di far capire subito dov'era, perché gli era passato il vezzo tanto praticato quando andavamo insieme sugli alberi prima, di fare cucù e scherzi alla gente che passava sotto. Nei primi tempi i contadini, a vederlo varcare tali distanze tutto per i rami, non si raccapezzavano, non sapevano se salutarlo cavandosi il cappello come si fa coi signori o vociargli contro come a un monello. Poi ci presero l'abitudine e scambiavano con lui parole sui lavori, sul tempo e mostravano pure d'apprezzare il suo gioco di star lassù, non più bello né più brutto di tanti altri giochi che vedevano fare i signori. Dall'albero egli stava delle mezz'ore fermo a guardare i loro lavori e faceva domande sugli ingrassi e le semine, cosa che camminando sulla terra non gli era mai venuto di fare, trattenuto da quella ritrosia che non gli faceva mai rivolgere parola ai villici e ai servi. A volte indicava se il solco che stavano zappando veniva dritto o storto, o se nel campo del vicino erano già maturi i pomodori. A volte soffriva di far loro piccole commissioni, come andare a dire alla moglie d'un falciatore che gli desse una cote o ad avvertire che girassero l'acqua in un orto. E quando aveva da muoversi con simili incarichi di fiducia per i contadini, allora se in un campo di frumento vedeva posarsi un volo di passeri, faceva strepito e agitava il berretto per farli scappare. Nei suoi giri solitari per i boschi, gli incontri umani erano, seppur più rari, tali da imprimersi nell'animo, incontri con gente che noi non si incontra. A quei tempi, tutta una povera gente girovaga veniva ad accamparsi nelle foreste, carbonai, calderai, vetrai, famiglie spinte dalla fame lontano dalle loro campagne, a buscarsi il pane con instabili mestieri. Piazzavano i loro laboratori all'aperto e tiravano su capannucce di rami per dormire. Da principio il giovinetto coperto di pelo che passava sugli alberi faceva loro paura, specie alle donne che lo prendevano per uno spirito folletto. Ma poi egli entrava in amicizia, stava delle ore a vederli lavorare e la sera, quando si sedevano attorno al fuoco, lui si metteva sul ramo vicino a sentire le storie che narravano. I carbonai, sullo spiazzo battuto di terra cenerina, erano i più numerosi. Urlavano «Hura! Hota!» perché erano gente bergamasca e non la si capiva nel parlare. Erano i più forti e chiusi e legati tra loro, una corporazione che si propagava in tutti i boschi, con parentele e legami e liti. Cosimo alle volte faceva da tramite tra un gruppo e l'altro, dava notizie, veniva incaricato di commissioni. «M'hanno detto quelli di sotto la rovere rossa di dirvi che hanfa la hapa hotal hoc. Rispondigli che heng hobet hote hot». Lui teneva a mente i misteriosi suoni aspirati e cercava di ripeterli, come cercava di ripetere gli zirli degli uccelli che lo svegliavano il mattino. Se ormai si era sparsa la voce che un figlio del barone di Rondò da mesi non scendeva dalle piante, nostro padre ancora con la gente che veniva da fuori cercava di tenere il segreto. Vennero a trovarci i conti d'Estomac, diretti in Francia, dove avevano nella baia di Tolone dei possessi e in viaggio vollero far sosta da noi. Non so che giro di interessi ci fosse sotto. Per rivendicare certi beni o confermare una curia a un figlio vescovo avevano bisogno dell'assenso del barone di Rondò. E nostro padre, figurarsi, su quell'alleanza costruiva un castello di progetti per le sue pretese dinastiche su Ombrosa. Ci fu un pranzo, da morire di noia tanti salamelecchi fecero, e gli ospiti avevano con loro un figlio zerbinotto, un cacastecchi imparruccato. Il barone presenta i figli, cioè me solo, e poi «Poverina», dice, «mia figlia Battista vive così ritirata, è molto pia, non so se la potrete vedere». Ed ecco che si presenta quella scema, con la cuffia da monaca, ma tutta messa su con nastri e gale, la cipria in viso, i mezzi guanti. E bisognava capirla, da quella volta del marchesino della Mela, non aveva mai più visto un giovanotto, se non garzoni o villani. Il contino d'Estomac giù in chini, lei risatine isteriche. Al barone, che ormai sulla figlia aveva fatto una croce, il cervello prese a mulinare nuovi possibili progetti. Ma il conte faceva mostra di indifferenza, chiese... «Ma non avevate un altro di maschio, Monsieur Arminio?» «Sì, il maggiore», disse nostro padre, «ma combinazione è a caccia!» Non aveva mentito, perché in quell'epoca Cosimo era sempre nel bosco col fucile a far la posta a lepri e a tordi. Il fucile gliel'avevo procurato io, quello leggero che usava Battista contro i topi e che da un po' di tempo ella, trascurando le sue cacce, aveva abbandonato appeso a un chiodo. Il conte prese a chiedere della selvaggina dei dintorni. Il barone rispondeva tenendosi sulle generali perché, privo com'era di pazienza e d'attenzione per il mondo circostante, non sapeva cacciare. Interloquì io, benché mi fosse vietato metter bocca nei discorsi dei grandi. «E tu cosa ne sai, così piccino?» fece il conte. «Vado a prendere le bestie abbattute da mio fratello e gliele porto sugli...» Stavo dicendo, ma nostro padre mi interruppe. «Chi t'ha invitato a conversazione? Va a giocare!» Eravamo in giardino. Era sera e faceva ancora chiaro, essendo estate. Ed ecco, per i platani e per gli olmi, tranquillo se ne veniva Cosimo, col berretto di pel di gatto in capo, il fucile a tracolla, uno spiedo a tracolla dall'altra parte e le gambe nelle ghette. «Ehi, ehi!» fece il conte, alzandosi e muovendo il capo per meglio vedere, divertito. «Chi è là? Chi è lassù sulle piante?» «Cosa c'è?» «Non so proprio, ma le sarà apparso», faceva nostro padre, e non guardava nella direzione indicata, ma negli occhi del conte, come per assicurarsi che ci vedesse bene. Cosimo intanto era giunto proprio sopra di loro, fermo a gambe larghe su una forcella. «Ah, è mio figlio, sì, Cosimo! Sono ragazzi, per farci una sorpresa, vede, si è arrampicato lassù in cima!» «È il maggiore?» «Sì, sì, dei due maschi è il più grande, ma di poco, sa, sono ancora due bambini, giocano!» «Però è in gamba ad andare così per i rami, e con quell'arsenale addosso, giocano!» E con un terribile sforzo di malafede che lo fece diventare rosso in viso, «Che fai lassù, Vuoi scendere? Vieni a salutare il signor conte!» Cosimo si cavò il berretto di pel di gatto, fece un inchino. «Riverisco, signor conte!» Rideva il conte. «Bravissimo, bravissimo! Lo lasci star su, monsieur Arminio! Bravissimo giovanotto che va per gli alberi!» E rideva. E quello scimunito del contino, «Sei original, sa, sei très original!» Non sapeva che ripetere. Cosimo si sedette lì sulla forcella. Nostro padre cambiò discorso e parlava, cercando di distrarre il conte. Ma il conte ogni tanto alzava gli occhi e mio fratello era sempre lassù, su quell'albero o su un altro, che puliva il fucile o ungeva di grasso le ghette o si metteva la flanella pesante perché veniva notte. «Ma guarda, sa far tutto lassù in cima il giovanotto, a quanto mi piace! Ah, lo racconterò a corte la prima volta che ci vado, lo racconterò a mio figlio vescovo, lo racconterò alla principessa mia zia!» Mio padre schiattava. Per di più aveva un altro pensiero. Non vedeva più sua figlia ed era scomparso anche il contino. Cosimo, che s'era allontanato in uno dei suoi giri d'esplorazione, tornò trafelato. «Gli ha fatto venire il singhiozzo!» Il conte si impensierì. «Oh, è spiacevole. Mio figlio soffre molto di singhiozzo. Va, bravo giovanotto, va a vedere se gli passa. Di che tornino!» Cosimo saltò via e poi tornò, più trafelato di prima. «Si rincorrono. Lei vuole mettergli una lucertola viva sotto la camicia per fargli passare il singhiozzo e lui non vuole!» E scappò a vedere. Così passammo quella serata in villa, non dissimile in verità dalle altre, con Cosimo sugli alberi che partecipava come di straforo alla nostra vita. Ma stavolta c'erano gli ospiti e la fama dello strano comportamento di mio fratello si espandeva per le corti d'Europa, con vergogna di nostro padre. Vergogna immotivata, tant'è vero che il conte d'Estomac ebbe una favorevole impressione della nostra famiglia. E così avvenne che nostra sorella Battista si fidanzò col contino. Gli olivi, per il loro andar torcendosi, sono a Cosimo vie comode e piane, piante pazienti e amiche nella ruvida scorza, per passarci e per fermarcisi, sebbene i rami grossi siano pochi per pianta e non ci sia gran varietà di movimenti. Su un fico, invece, stando attento che regga il peso, non si è mai finito di girare. Cosimo sta sotto il padiglione delle foglie, vede in mezzo alle nervature trasparire il sole, i frutti verdi gonfiare a poco, odora il lattice che geme nel collo dei peduncoli. Il fico ti fa suo, ti impregna del suo umore gommoso, dei ronzii dei calabroni. Dopo poco a Cosimo pareva di stare diventando fico lui stesso e messo a disagio se ne andava. Sul duro sorbo o sul gelso d'amore si sta bene, peccato che siano rari. Così i noci, che anche a me, che è tutto dire, alle volte vedendo mio fratello perdersi in un vecchio noce sterminato, come in un palazzo di molti piani e innumerevoli stanze, veniva voglia di imitarlo, d'andare a star lassù. Tant'è la forza e la certezza che quell'albero mette a essere albero, l'ostinazione a essere pesante e duro, che gli si esprime persino nelle foglie. Cosimo stava volentieri tra le ondulate foglie dei lecci, o elci, come li ho chiamati finché si trattava del parco di casa nostra, forse per suggestione del linguaggio ricercato di nostro padre, e ne amava la screpolata corteccia, di cui, quando era sovrappensiero, sollevava i quadrelli con le dita, non per istinto di far del male, ma come ad aiutare l'albero nella sua lunga fatica di rifarsi. o anche desquamava la bianca corteccia dei platani, scoprendo strati di vecchio oro muffito. Amava anche i tronchi bugnati come all'olmo, che ai bitorzoli ricaccia getti teneri e ciuffi di foglie seghettate e di cartacee samare. Ma è difficile muovercisi, perché i rami vanno in su, esili e folti, lasciando poco varco. Nei boschi preferiva faggi e querce, perché sul pino le impalcate vicinissime, non forti e tutte fitte di aghi, non lasciano spazio né appiglio, ed il castagno, tra foglia spinosa, ricci, scorza, rami alti, par fatta apposta per tener lontani. Queste amicizie e distinzioni Cosimo le riconobbe poi col tempo, a poco, ossia riconobbe di conoscerle. Ma già in quei primi giorni cominciavano a far parte di lui come istinto naturale. Era il mondo ormai a essergli diverso, fatto di stretti e ricurvi ponti nel vuoto, di nodi o scaglie o rughe che irruvidiscono le scorze, di luci che variano il loro verde a seconda del velario di foglie più fitte o più rade, tremanti al primo scuotersi d'aria sui peduncoli o mosse come vele insieme all'incurvarsi dell'albero. Mentre il nostro di mondo s'appiattiva là in fondo e noi avevamo figure sproporzionate e certo nulla capivamo di quel che lui lassù sapeva, lui passava le notti ad ascoltare come il legno stipa delle sue cellule i giri che segnano gli anni nell'interno dei tronchi, e le muffe allargano la chiazza al vento tramontano, e in un brivido gli uccelli addormentati dentro il nido rincantucciano il capo laddove più morbida è la piuma dell'ala, e si sveglia il bruco, e si schiude l'uovo della verla. C'è il momento in cui il silenzio della campagna si compone nel cavo dell'orecchio in un pulviscolo di rumori, un gracchio, uno squittio, un fruscio velocissimo tra l'erba, uno schiocco nell'acqua, uno zampettio tra terra e sassi e lo strido della cicala alto su tutto. I rumori si tirano un con l'altro. L'udito arriva a sceverarne sempre di nuovi, come alle dita che disfano un bioccolo di lana, ogni stame si rivela intrecciato di fili sempre più sottili ed impalpabili. Le rane, intanto, continuano il gracidio che resta nello sfondo e non muta il flusso dei suoni. Come la luce non varia per il continuo ammico delle stelle. Invece, a ogni levarsi o scorrer via del vento, ogni rumore cambiava ed era nuovo. Solo restava nel cavo più profondo dell'orecchio l'ombra di un mugghio o murmure. Era il mare. Venne l'inverno. Cosimo si fece un giubbotto di pelliccia. Lo cucì da sé con pezzi di pelli di varie bestie da lui cacciate, lepri, volpi, martori e furetti. In testa portava sempre quel berretto di gatto selvatico. Si fece anche delle brache, di pelo di capra, col fondo e le ginocchia di cuoio. In quanto a scarpe, capì finalmente che per gli alberi la cosa migliore erano delle pantofole e se ne fece un paio non so con che pelle, forse tasso. Così si difendeva dal freddo. Bisogna dire che a quei tempi da noi gli inverni erano miti, non con quel freddo d'ora, che si dice Napoleone abbia stanato dalla Russia e si sia fatto correre dietro fin qui. Ma anche allora passare le notti d'inverno al sereno non era un bel vivere. Per la notte Cosimo aveva trovato il sistema dell'otre di pelo. Non più tende o capanne, un otre col pelo dalla parte di dentro, appeso a un ramo. Ci si calava dentro, ci spariva tutto e si addormentava rannicchiato come un bambino. Se un rumore insolito attraversava la notte, dalla bocca del sacco usciva il berretto di pelo, la canna del fucile, poi lui a occhi sgranati. Dicevano che gli occhi gli fossero diventati luminosi nel buio come i gatti e i gufi. Io però non me ne accorsi mai. Al mattino, invece, quando cantava la ghiandaia, dal sacco uscivano fuori due mani strette a pugno, i pugni s'alzavano e due braccia si allargavano stirandosi lentamente, e quello stirarsi sollevava fuori la sua faccia sbadigliante, il suo busto col fucile a tracolla e la fiaschetta della polvere, le sue gambe arcuate. Gli cominciavano a venire un po' storte per l'abitudine a stare e muoversi sempre carponi o accoccolato. Queste gambe saltavano fuori, si sgranchivano e così, con uno scrollar di schiena, una grattata sotto il giubbotto di pelo, sveglio e fresco come una rosa, Cosimo incominciava la sua giornata. Andava alla fontana perché aveva una sua fontana pensile, inventata da lui, o meglio costruita aiutando la natura. C'era un rivo che in un punto di strapiombo scendeva giù a cascata e là vicino una quercia alzava i suoi alti rami. Cosimo, con un pezzo di corteccia di pioppo, lungo un paio di metri, aveva fatto una specie di grondaia che portava l'acqua dalla cascata ai rami della quercia e poteva così bere e lavarsi. Che si lavasse, posso assicurarlo, perché l'ho visto io diverse volte. Non molto e neppure tutti i giorni, ma si lavava. Aveva anche il sapone. Col sapone, certe volte che gli saltava il ticchio, faceva pure il bucato. S'era portato apposta sulla quercia una tinozza, poi stendeva la roba ad asciugare su corde da un ramo all'altro. Tutto faceva, insomma, sopra gli alberi. Aveva trovato anche il modo d'arrostire allo spiedo la selvaggina cacciata, sempre senza scendere. Faceva così. Dava fuoco a una pigna con un acciarino e la buttava a terra in un luogo predisposto a focolare. Quello gliel'avevo messo su io con certe pietre lisce. Poi ci lasciava cadere sopra stecchi e rami da fascina. Regolava la fiamma con palette e molle legate a lunghi bastoni, in modo che arrivasse allo spiedo appeso tra due rami. Tutto ciò richiedeva attenzione, perché è facile nei boschi provocare un incendio. Non per nulla questo focolare era anch'esso sotto la quercia, vicino alla cascata, da cui si poteva trarre, in caso di pericolo, tutta l'acqua che si voleva. Così, un po' mangiando di quel che cacciava, un po' facendone cambio con i contadini per frutta e ortaggi, Cosimo campava proprio bene, anche senza bisogno che da casa gli passassero più niente. Un giorno apprendemmo che beveva latte fresco ogni mattina. S'era fatta amica una capra che andava ad arrampicarsi su una forcella d'ulivo, un posto facile, a due palmi da terra. Anzi, non che ci si arrampicasse, ci saliva con le zampe di dietro, cosicché lui, sceso con un secchio sulla forcella, la mungeva. Lo stesso accordo aveva con una gallina, una rossa, padovana, molto brava. Le aveva fatto un nido segreto nel cavo d'un tronco e un giorno sì e uno no ci trovava un uovo che beveva dopo averci fatto due buchi con lo spillo. Altro problema, fare i suoi bisogni. Da principio, qua o là, non ci badava, il mondo è grande, la faceva dove capita. Poi comprese che non era bello. Allora trovò, sulla riva del torrente Merdanzo, un ontano che sporgeva sul punto più propizio e appartato, con una forcella sulla quale si poteva comodamente star seduti. Il Merdanzo era un torrente oscuro, nascosto tra le canne, rapido di corso, e i paesi vicini Ori vi gettavano le acque di scolo. Così il giovane piovasco di Rondò viveva civilmente, rispettando il decoro del prossimo e suo proprio. Ma un necessario complemento umano gli mancava nella sua vita di cacciatore. Un cane. C'ero io che mi buttavo per le fratte nei cespugli per cercare il tordo, il beccaccino, la quaglia caduti incontrando in mezzo al cielo il suo sparo, o anche le volpi quando, dopo una notte di posta, ne fermava una a coda lunga distesa appena fuori dai brughi. Ma solo qualche volta io potevo scappare a raggiungerlo nei boschi. Le lezioni con l'abate, lo studio, il servir messa, i pasti con i genitori mi trattenevano. I 100 doveri del viver familiare cui io mi sottomettevo. Perché in fondo, la frase che sentivo sempre ripetere, in una famiglia di ribelle ne basta uno, non era senza ragione. E lasciò la sua impronta su tutta la mia vita.